Ai serra d'anni nemmeno le sogliette, tu sai a to, tu sai a to. Addosto cuore in grado che io dispiette, farmene un po', farmene un po'. Addosto fuoco che c'è ma se fuia, te lascia sta, te lascia sta. E non ti corre appresso, non distruia, vuoi solo guardare. Yam, yam, gap, yam, ya. Yam, yam, gap, yam, ya. Ne kulif, ne kulaf, ne kulif, ne kulaf. Gap, yam, ya. Ne kulif, ne kulaf. Yam, yam, gap, yam, ya. Yam, yam, gap, yam, ya. Ne kulif, ne kulaf, ne kulif, ne kulaf. Mia mia con i culi e ne cola ne am dalla terra la mondagna lo basso c'è lo basso c'è se vede frange proce della Spagna io vengo a te io vengo a te. Brave goli con nitten fatto, in cielo va. Cielo se va. Se va, con malla vien dall'andrassata, qui se gli sa. Qui se gli sa. Yam, yam, ngap, yam, ya. Yam, yam, ngap, yam, ya. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Ngap, yam, ya. Funiculi, funicula. Yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, yamme, pensavo che sto chiedo già voi solo a me guardate le levamma questa maschera e decimma verità. Te voglio bene, te voglio ben assai, si tu che sta cadena con un spezzo mai. Sonna gentile, sospira mio carnale, te cerco come l'aria, te voglio bene campa. Via, spero da bavare. Non trovano le pagine, la tua faccia, sembra per stacca attorno, sperano che balla. Sonnaggia verso te, fammi dormire una notte abbracciata con te. Oh Maria, oh Maria, quando sonnaggia verso già sarrava no segne fenestello Maria Cammanella no segna mamma fa sana chitarra mia Maria se scedata Cicca serenata, facimma la sentì. Oi Maria, oi Maria, quando sonnaggia verso te, fammi dormì una notte abbracciata con te. Oh, stavo già desced indaltato, mentre la strigna o spose tue vicino, stava scetata, si posta scetata. Dorma sonnechino, non give gine la strava fa spia, perché non può sbaglia sta voce mia, e la stessa voce che chi anni indaltato te scelgo sposa non ave paura vita che senza non maserano di sarà sicuro di là così che canti in nostra via o sarà pazzo amore e gelosia starai a niente tanto tiempo mai da compagna qua chitar. Chissà stanotte non se scelta amore. L'amore sfortunato e canta d'ora che niente volto renna chitarra. Canta che è bella la mole addormuta con noi perché vos no. Ma tu che pinse sull'Italia nuova, ma tu che aspetta che non va pensiero, niente voglia, niente spera che venete sempre a fianco a me. Sì, sicuro è che st'amore, che mi so sicuro te. Oi vita mia, oi cuore, che stu cuore, si stata prima amore. O prima e l'ultima sarà per me. Scrive sempre sta contenta, io non penso che a te solo, un pensiero mi consola che tu pensi solamente a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle te. Hai vita mia, hai cuore, che sto cuore si stava, o prima amore, o prima l'ultimo sarà per me. Quando mamma te l'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Per bastasti canne bella, per bastasti canne bella, tutto quello che mettete, tutto quello che mettete. C'è una singapucciata di una martella mescata, latte rosso e rosa latte da facetto un coppo fatto. Non c'è bisogno di zingare fatte per la concia, come da fatta mamma da saccia meglio a te. e per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non serve la stessa dose, non serve la stessa dose. Vuoi sapere che ci mettete, vuoi sapere che ci mettete. Mo te dica tutta cosa, mo te dica tutta cosa. Non parlare chi tutte fra le giardino. Nelle zucchero e cannella, ne bastai sta bocca bella. Non c'è bisogno zingere, va devere con c'è. Come da fatta mamma da saccereglia te. Bastamento per terra assai lontano, canto a bordo son napolitano, canto a petramento o golfe già scombare e a luna mezzo mare. La favore Santa Lucia lontana te, quando a malinconia se gira monna sana, se va cerca fortuna, ma quando sponda luna lontana a Napoli non si può sta. Santa Lucia tutiana solo non può chiamare, ma più lontana stai, più bella pare. E a cande de sirena, de cade sangore e rezzo, de cade non va ricchezza, si è nata a Napoli, ci vuole morire. Santa Lucia lontana a te, quando a malinconia se gira monna sana, se va cerca fortuna, ma quando sponda lontana a Napoli non si può stare. Santa Lucia lontana te, quanta I'm alone.

quanto stai. Voglia te, voglia te, chi sto che la manna nella vola verrà. Appuntamento, guardo mare, guardo fronne, si le balla non risponde, stai distratta con ma che, io te rengo tindo come, sangue sempre innamorata, ma tu invece pensa a stai scordando me. Quando si dice sì, tiene la mano. Non si da fa morire, non si va amando. Tu mi diciste sì, nasere maggio e mo tiene a braccio amma la so. Che tuoi non so sincero, come quando mi incontrasto, come quando mi dicesti voglio bene solo a te, e tremando mi giurasti con una mano in gatto, non si scordo prima amore, stai scordando me. Quando si dice sì, ti amo amando. Non si da fa morire, non l'amando. E tu mi dicesti sì, nasere maggio, e mo tiene a braccio a me lo so. Ti chiamo, Tvega, desenda, desonda, e nalle angeminze gainanda, che spocchia non bonda, più pace trova. Cammina, ma non s'accendo vago, chi sto sempre embriaco e non bevo mai vino. Oggi ho fatto nuvola, ma donna la neve, se mi passa sta freva, ora penso te chiamo te vega te sento te sonno e non ci penso che in nonno che st'occhio non ponno più pace. For a downcast eye, for love that is pure. there's none so dear as the girl that's here, when a flagon of wine will do. A flagon of wine, a gallon of wine, a barrel of wine will do. And a shin of wine will do. The gallows steep beside me. I'll never wake with a long headache, though heaven or hell betide me. For if I die as I hope to die, then I'll never be sober again, not I. So I care for the fast and rare. I long for a stronger brew. No water for me to eternity, when a flagon of wine will do. A flagon of wine, a gallon of wine, a barrel of wine will do. Good. love me, love me tonight. to whisper. blushing as rose. Understand? Will you care to keep my heart? beggars of Paris town, you lousy rabble of low degree. When spare King Louis to keep his crown and save our city from Burgundy. You and I are good for nothing but to die. We can die for liberty. Sons of toil and danger, will you serve a stranger and bow down to Burgundy? Sons of shame and sorrow, will you cheer tomorrow for the crown of Burgundy? Onward, onward, swords against the foe! Forward, forward, the lily banners go! Sons of France, around us break the chain that bound us, and to hell with Burgundy! Nothing but to die, we can die for liberty. Sons of toil and danger, will you serve a stranger and bow down to Burgundy? Sons of shame and sorrow, will you cheer tomorrow for the crown of Burgundy? Sons of France, around us break the chain that bound us, and to hell with Burgundy!